Per la prima puntata di Meet the Locals del 2026 abbiamo raggiunto un locale di cui vi abbiamo parlato in tutte le salse. Praticamente abbiamo fatto interviste, vi abbiamo fatto report stando lì all'interno di cosa succede in città. Il locomotive appare sempre, insomma è chiaro che non potevamo che fare una puntata dedicata a questo locale che ha fatto la storia di Bologna e continua a farlo. Abbiamo raggiunto Michele al telefono per farci raccontare appunto la storia del locomotive. Intanto benvenuto Michele, come stai? Tutto bene, buongiorno, grazie dell'invito. Andiamo molto bene, insomma, periodo intenso, si lavora tantissimo, il locomotive è lanciato verso i 20 anni, manca ancora qualcosa, il locomotive apre nel 2007, il 3 ottobre del 2007 è stato il primo concerto, quindi... Siamo lì, siete 19enni adesso più o meno. Esatto, sono già maggiorenni comunque. Qual è stato il primo concerto, Michele? Allora, il primo concerto è stato il live dei Rosolina Marta, allora, il primo evento in realtà... Volendo fare proprio una narrazione fedele che è giusto fare, è stato uno spettacolo teatrale che si chiama Mano Libera, che a parte le serate danzanti del venerdì e sabato c'era l'idea di fare teatro, di ospitare talk e di essere insomma il più variegati possibile, di dare spazio a più realtà possibili. E il giorno dopo ospitammo Rosolina Mar, come ogni apertura di locale o di azienda o di spazio, c'è sempre una rincorsa, no? Si stabilisce una data di apertura, magari si parte 5-6 mesi prima e si arriva a ridosso della data programmata che si è in ritardissimo. Cioè, eravamo proprio in ritardo e tra l'altro il concerto andò benissimo, venne un sacco di gente. Sfortunatamente quel giorno lì battezzammo il palco con la caduta di una delle casse dell'impianto che fortunatamente era appoggiata a terra, non era appesa, non c'era un appendimento, era sopra uno stativo, ma insomma cadde addosso al chitarrista e si spaccò la chitarra. Insomma, da lì poi ci siamo messi a posto, salutiamo il chitarrista Rosolina Marti, scusiamo ancora. Ok, ma che tra l'altro abbiamo ascoltato in apertura di questa intervista, insomma, su tua indicazione abbiamo proprio iniziato con una loro canzone per collegarci a questo aneddoto che era assolutamente divertente. Ma facciamo un passo indietro. Esatto, tu sei partito dall'aneddoto del primo concerto, però la curiosità mentre creavamo tutto Meet the Locals, le domande, come è nata l'idea di aprire il locomotive, cioè c'è stato un preciso momento in cui vi siete detti ok, lo facciamo? E a questa ti chiedo anche la storia del luogo, che come ti anticipavo io praticamente ci vivo dentro il locomotive, ti dico già che ho una piccola ossessione per i fogli Excel e ti dico che sono a quota 99 in questo momento, mi manca il centesimo. È un po' qual è stata la scintilla iniziale e qual è la storia di quelle mura rosse, cos'era prima? Allora, la scintilla, ragazzi, io avevo 27 anni, sono nato nell'80, gli altri ragazzi erano poco più grandi di me, Gabriele 78. Frequentavamo gli stessi spazi, facevamo un po' le stesse cose, si andava per concerti, si stava nei bar. A volte certe cose le fai proprio senza un minimo di ragionamento, proprio slanciato col cuore, con un'idea molto diversa da poi quello che è. Avevamo proprio una visione e delle aspettative completamente diverse. Come credo tanti ragazzi oggi, avevamo voglia di mollare la nostra realtà quotidiana, facevamo lavorare tutti nei bar, Gabri faceva l'allestitore, e per fare qualcosa di grande, qualcosa che ci entusiasmasse. Okay, quindi ci siamo messi assieme, Gabriele aveva questo contatto con un'associazione, Scuola Futuro, chiamava, che insomma ci ha accompagnato nei primi anni, poi ha abbandonato il progetto. E grazie a loro poi che c'era questa idea multidisciplinare, no, della programmazione. Gabriele, che frequentava il bar dove lavoravo, la linea, passava spesso, mi ha parlato di questo spazio, di questa associazione che aveva intenzione di aprire un circolo culturale per fare concerti, spettacoli d'arte varia. Ci siamo messi lì, proprio... Io avevo organizzato qualcosina, lui anche, aveva portato in giro uno spettacolo teatrale prodotto da lui, ma non avevamo esperienza, ve lo dico proprio sinceramente, noi abbiamo iniziato ad accumulare esperienza facendo le cose e come vedete abbiamo subito capito che gli impianti vanno montati in un certo modo piuttosto che in un altro. Ed è così che insomma nei primi 2 anni abbiamo preso tantissime batoste, tra cui la chiusura. Perché ti hanno chiuso, Michele, che raccontiamo anche perché, questo pezzo. Allora, la struttura, qui passiamo a cos'era la struttura. La struttura era una bocciofila, quindi c'è anche un film interessante. Adesso se qualcuno di voi ha la possibilità di andare a vedere su internet facendo una ricerca veloce, troverete un film sul dopolavoro ferroviario. L'attore principale era romano, un personaggio molto caratteristico, non mi viene il nome, comunque è il film su un tranviere che vive a Bologna, e credo degli anni 50, dove proprio si vede il DLF in quel periodo lì, che era un luogo molto vissuto, dove i ferrovieri si trovavano, andavano al bar, facevano attività, tra cui giocare a bocce. C'è anche la scena in cui giocano a bocce, dove si intravede il campo da bocce di fronte e il locomotive dietro. Quindi quando siamo entrati noi avevamo un campo da bocce, col classico tabellone, gli armadietti con ancora i giornaletti dei ferrovieri e tutte le robine che avevano lasciato lì dentro. Cioè, era rimasto fermo a una decina di anni prima, perché poi il luogo è stato inutilizzato per un po'. E l'idea di Ettore Bufalieri, che al tempo era il presidente del dopolavoro ferroviario, Ettore poi ci ha lasciato qualche anno dopo, Ettore aveva questa idea di far rivivere uno spazio che al tempo aveva solo l'Arena Puccini e una scuola di musica, e non era così popolato di attività come oggi. Ettore aveva già visto quello che il DLF è diventato oggi, quindi ha deciso di coinvolgerci, concordando veramente un affitto bassissimo, cioè facendo in maniera di aiutarci il più possibile per fare quello che poi abbiamo fatto. La struttura era una struttura adeguata a giocarci a bocce. Come spesso a Bologna, i luoghi dove si fanno i concerti non sono luoghi adibiti a concerti, quella è l'ex garage, quella è l'ex fabbrica di quello, cioè sono tutti ex qualcosa. Non ci sono spazi che nascono con la vocazione teatrale, no? Concerto, palco, insonorizzazione, quinte, sono pochi, ci sono i teatri. E così anche la bocciofila, dove eravamo, che aveva un problema, aveva delle mura larghe 3-5 centimetri, insomma una struttura veramente debole sotto il punto di vista della, come dire, dell'insonorizzazione, anche sotto il punto di vista termico. Quindi noi siamo partiti belli sereni, perché comunque insomma avevamo fatto i nostri studi ma non abbastanza approfonditi, e siamo dovuti fermare per fare un intervento che ha trasformato il locomotive in quello che è oggi. Tra l'altro siamo stati bravi e fortunati, perché ci siamo fermati, abbiamo chiuso e abbiamo fatto un ottimo lavoro, perché oggi il locomotive è un posto dove si sente molto bene. Sarete d'accordo? Confermiamo, esatto, perché purtroppo Bologna è vero, è piena di locali, molto spesso purtroppo incontriamo anche dei locali nei quali forse l'acustica non è al primo posto. Abbiamo parlato di come è nato il locomotive, già del primo concerto, prima di passare invece alla storia, quindi a questi, cos'è successo in questi 19 anni di storia, ti chiederei se hai voglia di scegliere una canzone da farci ascoltare che racconti anche un po' come è evoluta la storia di Locomotive Club. Allora, scegliamo Caribou Swim. Perfetto, l'ascoltiamo e torniamo da te. Quindi, passando alla prossima domanda, ti direi, riguardo la vita sul palco, il dietro le quinte, se c'è una scommessa vinta, mi spiego meglio, c'è un artista, una band che avete ospitato prima che diventasse veramente famoso, dicendo, cavolo, è passato da noi e poi vedi dove è arrivato? Guarda, ce ne sono tanti. In alcuni casi siamo stati bravi, in altri, molti altri, fortunati. Sceglierai James Blake. James Blake, perché? Potrei citare St. Vincent, lo stesso Caribou, che abbiamo ascoltato poco fa. Ti dico perché questo artista, perché proprio è stato scelto veramente prima che succedesse tutto, e tra l'altro venne a fare un live dubstep che sostanzialmente non ha niente a che fare con quel disco poi che uscì, credo, un anno dopo. Un altro artista che ho citato prima, Sharon Van Etten, che insomma ricordo come uno dei concerti più intensi che abbiamo fatto. È stato un concerto bellissimo. Posso chiederti, Michele, come scegliete le band che vengono, o come avete scelto nel tempo le band che vengono a suonare sul palco del Locomotive? Possiamo individuare due fasi. La fase iniziale, come vi ho raccontato, siamo raccontati un po' come dei pazzi che decidono di buttarsi in qualcosa che non conoscono benissimo, no? Ecco, in questa fase noi, poi crescendo, poi non abbiamo citato una cosa molto importante, l'ingresso nel gruppo iniziale di Giovanni Gandolfi. Giovanni veniva dal Covo, aveva un'esperienza con un'etichetta, Nit Records, quindi era ed è tuttora un grande professionista. Lui arrivò nel 2008, quindi a primo io, Gabriele, Massimiliano Galli, Renato Libeo e l'associazione Scoletto, dopo molti se ne andarono, arrivò Giovanni. Ed è grazie a Giovanni che poi abbiamo imparato a lavorare un po' meglio, abbiamo un po' sistemato le cose. Insomma, lui ha arricchito il nostro metodo che andava crescendo e siamo diventati quelli di oggi. Fatta questa premessa, il nostro metodo era quello di andare, insomma, ad ascoltare quanta più musica possibile, cercando sulle riviste di settore, i blog specializzati, cercando qualcosa che ci entusiasmasse, facendo magari un'analisi di quello che poteva essere, come dire, la risposta di pubblico. Ai tempi c'era Last FM, poteva darti un'idea della risposta, poi sono arrivati i social, tutto è diventato un pochino più controllabile sotto il punto di vista numerico, Spotify, eccetera. E così cercavamo di capire quello che poteva, tra i nostri gusti, tra le cose che ci erano piaciute di più, che poteva avere un riscontro di pubblico ed essere sostenibile in termini di produzione, ecco. Poi andando avanti, una volta che vai a stabilizzarti, che diventi un locale conosciuto, è normale, quando parti non ti conosce nessuno, parlo delle agenzie di booking, delle band, quindi hai tutto da dimostrare. Anno dopo anno ci siamo guadagnati il nostro ruolo e adesso capita spesso magari che anche le band che vorremmo fare arrivano a chiederci, arrivano a proporsi loro stesse. Faccio l'esempio di Yard Act. Un esempio proprio. Un esempio, cioè, che calza per pennello. È l'agenzia, sì, che si fida di noi, cioè abbiamo un rapporto con agenzie. Sapete bene che organizzare i concerti non significa contattare il gruppo, significa contattare, sì, un agente che rappresenta il gruppo. Questa agente poi, gli agenti hanno varie band, ci sono agenti che lavorano solo in Italia, agenti che lavorano per agenzie estere, quindi come nel caso di Yard Act portano band dall'estero e così via. Quindi il rapporto è con le agenzie, prima che con le band. Nel momento in cui trovi fiducia, un rapporto professionale umano che funziona, spesso sono loro a proporre. Diciamo che la bilancia, l'ago della bilancia si è spostato verso questa dinamica, ma prima era noi a rincorrere, a cercare. Ora capita spesso, fortunatamente, che succeda questo. Ci stiamo trasformando in un teatro musicale, no? Con le porte sempre aperte, giorno dopo giorno, ospitando concerti diversi. Una grande varietà, perché anche quando raccontiamo, assolutamente, quando raccontiamo i vostri eventi, siete sempre presenti nella nostra rubrica Cosa succede in città, e il Locomotive è sempre presente proprio perché la proposta è molto varia e anche molto diversificata per quanto riguarda i generi e la tipologia di proposte, quindi noi siamo affezionati a voi anche per questo. Mi aggancio alla diversificazione che ha il Locomotive. Una domanda che ti volevo chiedere è relativamente ai progetti paralleli, e anticipo in parte la tua risposta, a meno che non ce ne siano anche altri, ma sicuramente ti volevo chiedere della Locomotive Records, che conta ormai anche un bel parterre di artisti, e eravamo curiosi di saperne di più. Allora, Locomotive Records nasce, cioè, era un desiderio che avevamo dall'inizio, cioè, all'inizio l'idea era quella di fare il posto, il locale che faceva teatro, che aveva l'etichetta, che faceva i talk, poi pian pianino ci siamo resi conto che la cosa non era sostenibile, ma poi negli anni siamo riusciti invece a trovare il modo, avendo anche la fortuna di avere Giovanni all'interno, che ha già avuto un'esperienza con grandi risultati, e quindi siamo partiti, tutti noi tra l'altro siamo musicisti, Gabriele ha una band che gli hai, che è stata la prima, direi, prodotta dall'etichetta, e quindi senti, avevamo proprio voglia di coltivare anche quest'altra parte, che capirete anche voi che non è il nostro core, non è una cosa su cui noi investiamo pensando di lavorare e di pagare degli stipendi, detta come l'ha detta, è proprio quella parte che noi curiamo perché siamo appassionati, perché ci piace. Chiediamo, sempre attenti alla sostenibilità, però questo è. A proposito di sostenibilità, me l'hai servita su un piatto d'argento, perché stavamo per farti l'ultima domanda, che è proprio dedicata a questo, perché diciamo che il tema della sostenibilità, intesa sia come ambientale ma anche come sociale, in questi anni sta diventando sempre più importante, sempre più discussa. Quindi volevo chiedervi se anche voi in un qualche modo avete ragionato su questo tema e in che modo avete deciso di contribuire, o se avete dei progetti per pensare appunto alla sostenibilità ambientale o sociale. Stiamo lentamente, faccio mia colpa, lentamente cercando di raggiungere tutti gli standard che noi riteniamo adeguati, già con l'organizzazione di un tutto molto bello pre-Covid. La memoria, come vi ho detto prima, è quella che è, credo 2019, credo, ma già avevamo preso per quell'evento dei distributori d'acqua le borracce, avevamo cercato di lavorare sulla consegna dei bicchieri senza utilizzare plastica, quindi cercando di spostarci in quella direzione lì. Per il festival, ovvio che sulla programmazione, cioè sulla vita del locomotive dei 12 mesi la cosa era più complessa, però insomma quello era un po' il modello su cui tuttora vorremmo arrivare. All'interno del locale e all'esterno stiamo cominciando a curare sempre di più tutta la parte dedicata alla raccolta differenziata, che deve diventare una pratica, credo, deve essere normalità, cioè non è che andiamo a pensare alla raccolta differenziata come qualcosa di particolare, una cosa normale, che però nei locali fai fatica a fare, perché purtroppo la fruizione degli spazi dove si fanno concerti e produzioni non è la fruizione che si ha, cioè le persone cambiano quando entrano dentro un locale, quando vanno a vedere un grande spazio, un concerto, alcune piccole cose vengono fatte diversamente, quindi deve essere bravo l'organizzatore a veicolare ogni piccolo gesto, cioè bisogna far vedere i bidoni, bisogna fargli spiegargli come muoversi, accompagnarli insomma. E accompagnarli bene, esatto. Questo è quel lavoro che stiamo facendo, alcune cose le abbiamo fatte meglio, alcune cose potremmo farle meglio, ci stiamo lavorando. Ci piacerebbe tanto mettere i distributori, fare in maniera di dare l'acqua, ma abbiamo già fatto vari giri, vari preventivi, ma è una cosa molto complessa. Dall'altra, insomma, stiamo lavorando. Voi che frequentate il locale l'avrete visto, qualcosina in tal senso lo stiamo facendo. Assolutamente sì. Io ti ringrazio, Michele, per essere stato con noi, per averci raccontato la storia del Locomotive Club, per iniziare il 2026, insomma, proprio con questa storia. E ti chiediamo se per salutarci hai voglia di scegliere una canzone per salutare le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori e per concludere questa chiacchierata. Ve la butto lì. Vai. St. Vincent Cruel. Vai, allora vai, noi andate. Ce l'ascoltiamo. Grazie per essere stato con noi, Michele. Grazie a voi. A presto ragazzi. A presto.